Improvvisamente un'emozione, tipo quelle che tu non vorresti mai, mi ha portato a ricordare un sogno che ho vissuto troppe volte, sai. Una terra incenerita ormai dal sole. Io cercavo di trovare la mia meta, quando mi son perso dentro i miei perché. Ho sentito un vecchio con il volto consumato dalle sue fatiche, che con la sua voce calda e stanca, forte da lontano mi chiamava. Vieni qui, senti quello che ho da dirti. Smettila di cercare delle scuse. Tutto ciò che ti fa morire dentro è solo frutto della tua poca voglia di volare. Io mi sono avvicinato piano piano, coi miei dubbi e la mia curiosità, in quell'illusione senza tempo, dove tutto mi sembrava vero ed il cielo era diventato scuro. Lentamente il vecchio continuò a parlare, mentre rimanevo inchiodato lì. Dalle sue parole ferme e dure, che dalle orecchie entravano nel cuore. Caro amico, tu fai un grande errore se ti senti solo parte lesa. Questo sai, è tutto quello che ho da dirti. Smettila di cercare delle scuse. Tutto ciò che ti fa morire dentro è solo frutto della tua poca voglia di volare. Ed il vecchio poi se ne andò senza guardarmi, partì con l'andatura di chi non può buttare il suo tempo. Il vecchio si allontanò, dietro il tramonto sparì senza voltarsi, lasciando solo queste parole. Questo sai, è tutto quello che ho da dirti. Smettila di cercare delle scuse. Ciò che ti fa morire dentro è solo frutto della tua poca voglia di volare. Sai, è tutto quello che ho da dirti. Smettila di cercare delle scuse. Tutto ciò che ti fa morire dentro è solo frutto della tua poca voglia di volare. Ed il vecchio poi se ne andò senza guardarmi, partì con l'andatura di chi non può buttare il suo tempo. Dietro il tramonto sparì senza voltarsi, lasciando solo queste parole. Questo sai, è tutto quello che ho da dirti.